Suppongo sappiate tutti, probabilmente lo sapete meglio di me, come funziona la posta elettronica. È quella che trasporta i messaggi da un computer all'altro, sui fili del telefono, lungo linee gestite da apposite organizzazioni. Basta disporre di un computer, di un modem, che è l'ingegnoso strumento che converte i segnali numerici generati dagli elaboratori elettronici in quelli adatti a essere trasmessi su una rete telefonica, e viceversa, e del relativo software di supporto, il tutto in vendita oramai per poche centinaia di migliaia di lire, e si possono inviare i propri messaggi in tempo reale praticamente dovunque. A qualsiasi corrispondente dotato di analoga attrezzatura si digita il testo, o se proprio si vuole essere raffinati si passa allo scanner un testo diversamente elaborato, si apre il collegamento, si dà l'apposito comando e via. La vostra comunicazione, si tratti di un augurio di buon compleanno, della richiesta di informazione a una banca dati, di una proposta di matrimonio, di un ordine di investire tutti i vostri averi alla borsa di Bogotà, è già bello che è arrivata. Se il destinatario in quel momento non è in attesa, poco male, la prima volta che accenderà il suo apparecchio troverà la visibile segnalazione del fatto che c'è un messaggio pronto per lui. Non c'è dubbio che si tratta di un notevole miglioramento tecnologico rispetto all'invio materiale di pezzi di carta, che comporta, come si sa, complessi problemi organizzativi di smistamento, espone i pezzi di carta in questione a rischi molteplici, dalle inondazioni agli attacchi degli Apache alla diligenza e via andare. Anche rispetto ai metodi più consueti di invio, diciamo così, non materiale di segnali a distanza, nuvole di fumo, tam tam, telegrafo, telescrivente, il telefono stesso, qualche evidente vantaggio c'è. E se il destinatario è sprovvisto di computer e modem o non è abbonato al servizio, perché anche a questi servizi bisogna abbonarsi naturalmente, esiste sempre la posta elettronica pubblica. Voi indirizzate il vostro messaggio a un ufficio postale abilitato e attrezzato, il più vicino al domicilio del destinatario, lì lo ricevono, lo stampano, lo infilano in un'elegante busta e lo recapitano con solerzia a chi di dovere. Capirete che dovendo inviare una raccomandata, non so, a Singapore o a Kota Lada, si chiamava quel posto della scimmia, a Kota Baru, è molto più conveniente farle fare la maggior parte del percorso sotto forma di segnali telefonici. Tra l'altro, grazie alle procedure di codifica e decodifica automatiche che si usano, quanto avete scritto sarà altrettanto riservato che se aveste infilato voi stessi il foglio nella busta e vi avesse apposto un sigillo di ceralacca, dicono. Io non mi sono ancora azzardato a installare un modem sul mio computer, però ricevo normalmente molti messaggi attraverso il servizio pubblico di posta elettronica. Mi arrivano con la normale distribuzione postale in certe buste bianco e verdi molto simili a quelle in cui arrivano i telegrammi, il che a chi è convinto come me che un telegramma 9 volte su 10 si porti una cattiva notizia non manca mai di causare un piccolo tuffo al cuore, ma non importa. Il fatto è che queste buste non mi arrivano da Singapore, neanche da Kota Baru, due città con cui non ho rapporti di nessun genere, mi arrivano dalla mia banca. L'agenzia cittadina che cura il mio modesto conto corrente, che per dare sollecita notizia dei movimenti che lo riguardano, di solito sono degli addebiti, qualche modifico ogni tanto, ha scelto questo modernissimo mezzo. Ma c'è un problema. La mia banca è sita esattamente a 2 isolati da casa mia. Calcolando che bisogna attraversare un viale piuttosto largo, saranno 200 o 300 metri, ecco. E per percorrere quei 200 o 300 metri, quei rendiconti non impiegano mai meno di 9 giorni, se si è fortunati, perché la media vi posso garantire è di 11. Un fattorino a piedi ci metterebbe al massimo 3 minuti, e anche se non posso pretendere che la mia banca adibisca un fattorino a un recapito personalizzato delle comunicazioni che mi riguardano, resta vero che l'ufficio postale di zona è a 540 metri esatti di distanza, e anche in questi tempi di disservizio la posta normale, quella materiale, se vogliamo usare questo aggettivo, dovrebbe essere in grado di coprire il percorso in un periodo inferiore agli 11 giorni. Io so quello che volete dire, che la distanza chilometrica in casi come questo non conta. Alla banca non possono fare eccezioni, se hanno deciso di usare la posta elettronica per dar conto dei movimenti sui conti correnti, devono indirizzare tutte le comunicazioni di quel tipo al proprio centro di smistamento, che sarà unico città per città, immagino, a sua volta il centro di smistamento le invierà per via modem alla posta centrale delle varie località di destinazione, lì le stamperanno, le imbusteranno, le ripartiranno agli uffici locali che le affideranno ai portalettere che provvederanno a consegnarle con le procedure consuete. Il vantaggio in casi come questo è statistico. I correntisti domiciliati a lunga distanza, a Cota Barù per esempio, ne trarranno grossi vantaggi in termini della velocità di consegna. Quelli a 200 metri aspetteranno qualche giorno di più, ma è peggio per loro, tanto il fatto è che il progresso vuole le sue vittime. Però la mia banca è un grosso istituto nazionale, non perché io ne sia cliente. È un grosso istituto dotato di un numero veramente spropositato di sportelli. E non è probabilissimo che molti correntisti siano domiciliati, non dico a Cota Barù, in altre località abbastanza lontane da rendere economico l'uso del modem, ma semplicemente fuori dal quartiere dove le varie agenzie hanno sede. E forse questo è il tipico caso in cui l'innovazione tecnologica rappresenta la vittoria del superfluo, della pura e semplice passività economica e funzionale. Uno sperpero dal punto di vista nostro, anche se non forse da quello di chi produce e impone la relativa tecnologia. D'altronde lo sperpero è una categoria economica che con l'elettronica sembra avere qualcosa a che fare, non so come, nel senso che la spinta a dotarci tutti di apparati il cui livello di sofisticazione non è sempre pari a quello di utilità, a me sembra particolarmente attiva in questo campo, in questo ramo. Chi non si è mai provvisto di un computer che in termini di megahertz, megabyte e quant'altro non sia enormemente sproporzionato alle sue esigenze, alzi la mano. Io per primo, confesso. Ecco, e concludo. Al semaforo sul viale che separa l'isolato da cui abito da quello in cui è sita l'agenzia bancaria di cui vi ho parlato, stazionano abitualmente due o tre signori dal colorito vivamente abbronzato, sempre ansiosi di lavare il parabrezza delle auto che ivi si fermano. Sono venuti nel nostro paese a cercare lavoro e evidentemente hanno trovato soltanto quello. Probabilmente sarebbero fin troppo lieti di un posto di fattorino, non so, di un posto di fattorino addetto al recapito ai correntisti dei messaggi delle sei agenzie bancarie sei collocate nelle immediate vicinanze. Ma sospetto che tutte e sei quelle agenzie si servano della posta elettronica, a costo di impiegare 11 giorni per coprire 300 metri, e il progresso, appunto, è il progresso. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va.